Capitolo 14. Molly trova protezione. Le nozze ebbero luogo come tutte le nozze. Lord Cameron e Lady Harriet arrivarono dalle torri, dunque l'ora fissata per la cerimonia fu ritardata il più possibile. Lord Cameron svolse il ruolo del padre della sposa ed era più in spolvero lui della coppia o di chiunque altro. Lady Harriet partecipò nella funzione, per così dire, di damigella volontaria, per condividere i doveri di Molly, spiegò lei. Il tragitto dalla Manor House alla chiesa del parco fu coperto con due carrozze. Mr. Preston e Mr. Gibson viaggiavano nell'una e Molly, sconcertata, con Lord Cameron e Lady Harriet nell'altra. L'abito di mussola bianca di Lady Harriet aveva già visto una o due feste in giardino e non era esattamente immacolato. Era stato un capriccio dell'ultimo momento da parte sua. Ella era molto allegra e molto inclina a parlare con Molly per scoprire quale sorta di personcina Claire si sarebbe ritrovata ad avere come figlia. Esordì. Non dobbiamo stropicciare questa vostra bella mussolina. Posatela sul ginocchio di papà. A lui non dispiace minimamente. Cosa, mia cara? Un vestito bianco? No, no, certo che no, mi piace. E poi andando a un matrimonio, chi le nota certe cose? Sarebbe diverso se stessimo andando a un funerale. Molly si sforzò di capire il significato di questa frase, ma prima che ci riuscisse, Lady Harriet disse ancora, arrivando al punto, come si vantava di fare sempre: Direi che è una bella difficoltà per voi, questo secondo matrimonio di vostro padre, ma scoprirete che Claire è la più amabile delle donne. Mi lasciava sempre fare a modo mio, e non ho dubbi che sarà così anche con voi. Intendo tentare di farmela piacere, dichiarò Molly a bassa voce, cercando di ingoiare le lacrime che quella mattina continuavano a salirle agli occhi. L'ho vista molto poco finora. Beh, è la cosa migliore che potesse capitarvi, mia cara, interloquì Lord Cammer. State diventando una giovane donna e anche molto graziosa, se permettete che un vecchio signore lo dica. E chi sarebbe più adatto della moglie di vostro padre a farvi uscire in società, a farvi vedere, a portarvi ai balli e quel genere di cose? Ho sempre detto che l'unione che sarà sancita quest'oggi è la cosa più opportuna che abbia mai sentito, ed è persino un maggior vantaggio per voi che per le due persone coinvolte. Poveretta, disse Lady Harriet, notando l'espressione turbata di Molly. Il pensiero dei balli è troppo per lei in questo momento, ma sarete contenta di avere Cinzia Kirkpatrick a farvi compagnia, non è vero, cara? Molto, confermò Molly, rallegrandosi un po'. La conoscete? La incontravo di continuo quando era bambina, ma da allora solo una volta o due. È la creatura più graziosa che abbiate mai visto, e con due occhi che fanno danni, se non mi sbaglio. Ma Claire tenne a freno il suo spirito piuttosto bene quando era con noi. Immagino temesse che procurasse disturbo. Prima che Molly potesse formulare la sua prossima domanda, erano giunti alla chiesa. Lei e Lady Harriet entrarono in un banco vicino alla porta per aspettare la sposa. E dietro di lei, in corteo, si sarebbero poi avvicinate all'altare. Il conte proseguì da solo per andare a prendere la casa, che non distava neppure un quarto di miglio. Per la donna era gradevole essere accompagnata all'altare e in meneo da un signore di alto lignaggio e avere sua figlia come damigella. Mrs. Kirkpatrick, in questa effusione di piccole gratificazioni, sulla soglia del matrimonio con un uomo che le piaceva e che l'avrebbe mantenuta senza richiederle sforzo alcuno, aveva un aspetto bello, felice e radioso. Una piccola nube le oscurò il volto quando vide Mr. Preston. La dolce costanza del suo sorriso fu disturbata dal vederlo dietro Mr. Gibson. Ma il viso di lui non si alterò mai. Si inchinò a lei con serietà e poi sembrò concentrarsi sulla funzione. 10 minuti e fu tutto finito. Lo sposo e la sposa percorsero in carrozza da soli la via del ritorno alla Manor House. Mr. Preston rientrò a piedi per una scorciatoia e Molly si ritrovò un'altra volta con Milord, che si sfregava le mani chiocciolando, e Lady Harriet, che tentava di essere gentile e consolante, quando invece il silenzio sarebbe stato il conforto maggiore. Molly scoprì con sgomento che era stato deciso che quella sera lei tornasse con Lord Cameron e Lady Harriet alle torri. Nel frattempo, Lord Cameron aveva affari da discutere con Mr. Preston e dopo che la coppia felice fosse partita per la sua settimana di vacanza, lei sarebbe rimasta sola con la formidabile Lady Harriet. Quando si ritrovarono insieme, dopo che tutti gli altri erano spariti, Lady Harriet sedette immobile vicino al fuoco del salotto, schermandosi il viso dalla fiamma, ma scrutando intensamente Molly per un minuto o due. Molly era cosciente di questo sguardo prolungato e stava tentando di trovare il coraggio per fare altrettanto quando Lady Harriet disse all'improvviso: «Mi piacete, siete una creaturina selvatica e voglio domarvi. Venite qui, sedete su questo sgabello accanto a me. Come vi chiamate? O come vi chiamano? Come direbbero quelli del nord. Molly Gibson. Il mio vero nome è Mary. Molly è un bel nome, ha un suono molto dolce. Nel secolo scorso la gente non aveva paura dei nomi semplici. Ora siamo così eleganti e raffinati, niente più Lady Betty al giorno d'oggi. Quasi mi domando come mai non abbiano ribattezzato la lana pettinata e il cotone da filare che portano questo nome. Immaginate il cotone Lady Costanzia e la lana pettinata Lady Anna Maria. Non sapevo che esistesse un cotone Lady Betty, disse Molly. Il che prova che voi non lavorate fronzoli. Ma vedrete che Claire vi farà cominciare. Vi faceva fare un lavoretto dopo l'altro. Cavalieri inchinati e dame, fiori impossibili. Ma devo renderle giustizia e aggiungere che quando me ne stancavo, lì finiva lei. Mi chiedo se andrete d'accordo. Anch'io, sospirò Molly sottovoce. Io credevo di averla vinta su di lei, finché un giorno mi venne l'inquietante sospetto che per tutto il tempo fosse stata lei a comandare me. In ogni caso, lasciarsi manovrare è una cosa semplice, almeno finché non ci si rende conto di come avviene, e a quel punto può diventare divertente se lo si considera sotto quella luce. Odierei lasciarmi manovrare, dichiarò Molly indignata. Cercherò di fare ciò che lei desidera per amore di papà, se mi parlerà apertamente, ma non mi piacerebbe ritrovarmi intrappolata. Ora sì, ammise Lady Harriet, sono troppo pigra per evitare le trappole. E quasi mi piace prendere atto dell'intelligenza con cui sono state disseminate. Poi però naturalmente so bene che se decidessi di sforzarmi, potrei spezzare i vimini con i quali si tentasse di imprigionarmi. Forse voi non ne sareste capace. Non capisco proprio cosa intendete, disse Molly. Oh, beh, non importa. Direi che per voi è meglio non capire. La morale di tutto ciò che ho detto finora è: fate la brava ragazza, sopportate di essere guidata e troverete nella vostra nuova matrigna la creatura più dolce che si possa immaginare. Andrete perfettamente d'accordo con lei, non ho dubbi. Come vi rapporterete alla figlia è un altro discorso, ma direi molto bene. Ora, sogniamo per il tè, perché immagino che quella pesante colazione abbia sostituito il nostro pranzo. Mr. Preston entrò nella stanza proprio in quel momento e Molly rimase lievemente sorpresa dalla freddezza con cui Lady Harriet lo congedò. Visto che ricordava bene, come la sera precedente, all'ora di cena, Mr. Preston avesse fatto allusione a un'amicizia con lei. Non sopporto quel genere di persona, commentò Lady Harriet, quasi prima che lui potesse essere tanto lontano da non sentirla. Si dà tutte quelle arie galanti con una donna per cui è suo dovere portare un semplice rispetto. Parlo volentieri con un lavorante di mio padre, mentre con un uomo come quel maleducato bell'imbusto sono tutta spini. Qual è la definizione che ne danno gli irlandesi? Usano una parola perfetta, lo so. Qual è? Non so, non l'ho mai sentita, rispose Molly, vergognandosi un po' della propria ignoranza. Oh, questo dimostra che non avete mai letto i racconti di Miss Edgeworth. Oh sì. Se li conoscete, ricorderete che c'era questa parola, anche se non mi viene in mente quale. Se invece non avete mai letto queste storie, saranno proprio la cosa giusta per ingannare la vostra solitudine. Comunicano una morale e sono molto educative, ma anche sufficientemente interessanti. Ve le presterò per quando starete sola. Non sono sola, non starò a casa, andrò in visita delle signorine Browning. Allora ve le porterò. Conosco le signorine Browning, sono solite venire regolarmente alle torri per la giornata dedicata alla scuola. Le chiamavo Pexy e Flepsy. Mi piacciono le signorine Browning. In ogni caso, ispirano abbastanza rispetto e ho sempre desiderato vedere il tipo di menage di questo genere di persone. porterò una pila intera di racconti di Miss Edgeworth, mia cara. Molly sedette in totale silenzio per un minuto o due, poi raccolse il coraggio per dire ciò che aveva in mente. Vostra signoria, l'uso del titolo era il primo frutto della lezione che Molly aveva ricevuto sul portare il dovuto rispetto. Vostra signoria continua a parlare di quella sorta, della classe di persona a cui io appartengo, come se stesse discutendo di una strana specie animale. Però con me voi discorrete così apertamente che, beh, continuate, mi piace ascoltarvi. Silenzio. Nel vostro cuore mi ritenete un impertinente, non è così? Disse Lady Harriet quasi con gentilezza. Molly rimase zitta per qualche momento, poi sollevò i suoi begli occhi onesti verso il viso di Lady Harriet e disse: Sì, un po', ma penso di voi tante altre grandi cose. Lasciamo stare le altre cose per il momento. Non capite, piccola mia? Io parlo come la mia gente e voi parlate come la vostra. Per entrambe è solo superficie. Beh, oserei dire che alcune delle vostre buone signore di Hollingford parlano dei poveri in un modo che considererebbero a loro volta insolente, se lo sentissero. Ma devo essere più rispettosa se ricordo quanto spesso mi sono sentita ribollire il sangue per il modo in cui parla e si comporta una delle mie zie, la sorella di mia madre, Lady. No, non farò nomi. Tutti coloro che si guadagnano da vivere con l'esercizio della mente o delle mani, dai professionisti ai ricchi mercanti fino ai lavoranti, lei li chiama individui. Nelle sue insulse chiacchiere non attribuisce loro mai neppure il titolo convenzionale di gentiluomini e la maniera in cui si appropria degli esseri umani, la mia donna, la mia gente, ma dopo tutto è solo un modo di dire. Non avrei dovuto usarlo con voi, ma per una ragione o per l'altra io vi distingo da tutte le abitanti di Hollingford. Ma perché? Insistette Molly. Io sono una di loro. Sì, è vero, ma ora non rimproveratemi un'altra volta per la mia impertinenza. Per la maggior parte, quando vengono alle torri, esse sono così artificiose nella loro ammirazione, nel loro esagerato rispetto, adottano una tale pretenziosità nei modi di fare da rendersi solo ridicole. Voi almeno siete semplice e sincera, ed è questo il motivo per cui nella mia mente vi distingo da loro e vi ho parlato così sconsideratamente come farei. Beh, ecco. Un'altra insolenza, come farei con una mia pari. Pari di rango, voglio dire. Perché a proposito delle cose concrete, io non mi ritengo in altro modo superiore al mio prossimo. E tuttavia, ecco il tè giunto in tempo per impedirmi di diventare troppo umile. Fu un piccolo pasto molto piacevole nel crepuscolo settembrino che andava svanendo. Quando fu concluso, Mr. Preston entrò nuovamente. Lady Harriet, mi concedete il piacere di mostrarvi alcune modifiche che ho operato nel giardino dei fiori, per le quali ho cercato di assecondare il vostro gusto, prima che faccia buio? Grazie, Mr. Preston. Un giorno o l'altro ci verrò a cavallo con papà e vedremo se approvare. Il viso di Mr. Preston avvampò, ma egli finse di non percepire l'altezzosità di Lady Harriet e rivolgendosi a Molly disse: Non volete, Miss Gibson, venire a vedere parte dei giardini? Penso non siate uscita affatto se non per andare in chiesa. A Molly non piaceva l'idea di passeggiare da sola con Mr. Preston, però aveva un gran bisogno di un po' d'aria fresca e sarebbe piaciuto vedere i giardini e guardare la Manor House a diversi punti di osservazione. Inoltre, per quanta avversione provasse nei confronti di Mr. Preston, le dispiaceva per il rifiuto che egli aveva ricevuto. Mentre esitava, lentamente avviandosi verso il consenso, Lady Harriet disse: Non posso lasciare andare, Miss Gibson. Se vorrà vedere il posto, ce la porterò io stessa uno di questi giorni. Quando egli ebbe lasciato la stanza, Lady Harriet affermò: Direi che è stata la mia pigrizia tenervi chiusa in casa tutto il giorno e contro la vostra volontà. In ogni caso, però, non dovete uscire a passeggiare con quell'uomo. Provo un'avversione istintiva nei suoi confronti. In realtà dei motivi ci sono e desidero che non gli consentiate mai di entrare in confidenza con voi. È un amministratore molto abile e svolge i suoi doveri con papà. Io non voglio essere accusata di calunnia, ma ricorda ciò che dico. Più tardi arrivò la carrozza e dopo innumerevoli ultime direttive da parte del conte, che sembrava aver rimandato ogni possibile istruzione a quel momento in cui stava come un goffo mercurio in equilibrio sul predellino della vettura, ritornarono alle torri. Preferite entrare o cenare con noi? Dobbiamo accompagnarvi a casa, certo, rincasare subito, chiese a Molly Lady Harriet. Lei e il padre avevano dormito finché non avevano raggiunto la base della scalinata. Dite la verità una volta per sempre. La verità è in genere divertente, se non altro. Preferirei tornare dalle signorine Browning immediatamente, per favore, replicò Molly, colta dal ricordo simile a un incubo della sua ultima e unica sera trascorsa alle torri. Lord Cammon stava aspettando per aiutare la figlia a scendere dalla carrozza. Lady Harriet si fermò per baciare Molly sulla fronte e dirle: Verrò presto. E vi porterò un carico di racconti di Miss Edgeworth. Così conoscerò presto Pexy e Flepsy. No, non fatelo per favore, la pregò Molly trattenendola. Non dovete venire, davvero, non dovete. Perché no? Perché preferisco di no, perché penso che non dovrei ricevere la visita di una persona che ride delle amiche che mi ospitano e le chiama con dei nomignoli. Il cuore di Molly batteva molto forte, ma lei intendeva seriamente ogni parola. Mia cara donnina, disse Lady Harriet chinandosi su di lei e parlando con molta gravità. Mi spiace molto di aver affibbiato loro dei nomignoli. Mi dispiace tanto, tanto di avervi ferita. Se prometto di essere rispettosa nei loro confronti, con i gesti e con le parole, e anche nei pensieri, se mi riesce. Mi lascerete venire, vero? Molly esitò. È meglio che io vada subito a casa. Direi solo cose sbagliate, c'è Lord Cammon che sta ancora aspettando. Lasciatelo perdere. Allora verrò. Mantenendo la promessa? Dunque Molly se ne andò in solitaria magnificenza e il battacchio della porta delle signorine Browning fu scosso a distesa sui suoi venerabili cardini dal valletto di Lord Cammon. Le due sorelle traboccavano accoglienza e curiosità. Per tutta quella lunga giornata avevano sentito la mancanza della loro giovane e radiosa amica. E tre o quattro volte allora si erano domandate e avevano deciso cosa stessero facendo in quel minuto esatto. Cosa che fosse stato di Molly, per l'intero pomeriggio era stata per loro una grossa perplessità ed erano schiacciate dal senso del grande onore che lei aveva ricevuto nell'avere il permesso di trascorrere così tante ore a tu per tu con Lady Harriet. Per la verità, erano molto più eccitate da questo fatto che non per i dettagli delle nozze. La maggior parte dei quali avevano appreso in anticipo, parlandone con molta perseveranza durante il giorno. Molly iniziò a pensare che ci fosse un fondamento nella tendenza di Lady Harriet a prendersi gioco dell'adorazione dimostrata dalla buona gente di Hollingford per i signori e si domandò con quali segni di reverenza le due avrebbero accolto Lady Harriet se lei fosse venuta a farle visita come promesso. Non le era mai passato per la testa di nascondere la possibilità di quella visita fino a quella sera. Ma in quel momento ella pensò che sarebbe stato meglio non parlarne, poiché non era neanche del tutto sicura che la promessa sarebbe stata mantenuta. Prima della visita di Lady Harriet, Molly ne ricevette un'altra. Roger Hamley arrivò un giorno a cavallo, portando una lettera di sua madre e da parte sua un nido di vespe in regalo. Molly udì la sua voce tonante salire la piccola scala mentre egli chiedeva se Miss Gibson fosse in casa alla domestica che aveva aperto la porta. Era in parte divertita e in parte infastidita al pensiero di come questa visita avrebbe rinfocolato le fantasie di Miss Browning. Vorrei non sposarmi proprio, pensò, piuttosto che avere per marito un uomo brutto. E il caro e buon Mr. Roger è davvero brutto. Non penso lo si possa definire neanche ordinario. Invece le signorine Browning, che non guardavano i giovanotti aspettandosi che portassero naturalmente un elmo e un'armatura, ritennero Mr. Roger Hamley un ragazzo molto avvenente. Quando lo videro entrare con il viso acceso dalla cavalcata e i denti bianchi che scintillavano piacevolmente, mentre si inchinava con cortesia e con un sorriso rivolto a tutte. Egli le conosceva un po' e conversò gradevolmente con loro mentre Molly leggeva la breve lettera di simpatia e di auguri per il matrimonio da parte di Mrs. Hamley. Poi si rivolse a lei e, per quanto le signorine Browning facessero tanto d'orecchi, non trovarono niente di particolare. nelle sue parole né nel tono in cui le pronunciò. «Vi ho portato il nido di vespe che vi avevo promesso, Miss Gibson. Quest'anno non ne abbiamo sentito la mancanza. Solo sulle terre di mio padre ne abbiamo presi 74 e uno dei lavoranti, un poveretto che sbarca il lunario prendendosi cura delle api, ha avuto una disgrazia terribile. Le vespe hanno cacciato via le api dai loro 7 alveari, li hanno occupati e si sono mangiate il miele». «Che avidi parassiti!» commentò Miss Browning. Molly vide gli occhi di Roger luccicare per l'uso sbagliato della parola, ma sebbene egli avesse un forte senso dell'umorismo, questo non sembrava mai diminuire il suo rispetto per le persone che lo divertivano. «Sono certa che meritino il fuoco e lo zolfo più delle povere care ape innocenti», interloquì Miss Phoebe. «E poi sembra così ingrato da parte degli esseri umani che banchettano con il miele!» A quell'idea sospirò, come se fosse eccessiva per lei. Mentre Molly finiva di leggere il biglietto, Roger spiegò il suo contenuto alle signorine Browning. «Io e mio fratello accompagneremo mio padre giovedì prossimo a un raduno agricolo a Canonbury e mia madre desiderava che vi dicessi che vi sarebbe molto obbligata se per quel giorno poteste fare a meno di Miss Gibson. Era ansiosa di chiedere anche l'onore della vostra compagnia, ma è così debole che l'abbiamo persuasa ad accontentarsi di Miss Gibson, perché non dovrebbe farsi scrupoli a lasciare che la signorina si intrattenesse da sola, cosa che invece le dispiacerebbe se foste presenti anche voi e vostra sorella. Di certo è molto gentile da parte sua, molto. Niente ci avrebbe dato un maggior piacere», affermò Miss Browning, sussiegosa della sua gratificata dignità. «Oh, sì, comprendiamo perfettamente, Mr. Roger, e riconosciamo appieno le cortesi intenzioni di Mrs. Hamley. Ciò che conta è il pensiero, come direbbe la gente comune. Mi pare ci sia stato un matrimonio fra gli Hamley e Browning 1 o 2 generazioni fa». «Mi pare di sì», replicò Roger. «Mia madre è molto delicata e obbliga ad assecondare la propria salute, cosa che l'ha tenuta distante dalla società». «Allora ci posso andare?» chiese Molly, raggiante all'idea di rivedere la sua cara Mrs. Hamley e tuttavia timorosa di sembrare troppo entusiasta di lasciare le 2 gentili vecchie amiche. «Ma certo, mia cara, scrivi un bel biglietto e di a Mrs. Hamley quanto le siamo grate per aver pensato a noi». «Temo di non poter aspettare il biglietto», disse Roger, «ma comunicherò il messaggio perché devo incontrare mio padre a Luna e manca poco». Quando se ne fu andato, Molly era così gioiosa al pensiero del giovedì che quasi faticò a comprendere ciò che le signorine Browning dicevano. Una parlava dell'abito di mussola bianca che Molly aveva mandato a lavare quella stessa mattina ed escogitava un modo per riaverlo in tempo e farglielo indossare. L'altra, Miss Phoebe, stranamente del tutto incurante dei discorsi della sorella, stava inseguendo un filo di pensieri tutto suo, tessendo le lodi di Roger Hamley. «Un giovane così bello, così cortese, affabile, come i giovanotti ai nostri tempi, vero sorella?» «Eppure dicono tutti che Mr. Osborne sia il più affascinante fra i due. Cosa ne pensi, figliola?» «Non ho mai visto Mr. Osborne», ammise Molly arrossendo e detestandosi per questo. «Perché faceva così? Non l'aveva mai incontrato, come aveva detto. Solo che la sua fantasia aveva indugiato a lungo su di lui. Egli se n'era già andato. Tutti i gentiluomini se n'erano andati prima che la carrozza che il giovedì andò a prendere Molly raggiungesse Hamley Hall. Ma Molly era quasi contenta, aveva molta paura di restare delusa. Inoltre, così poteva avere la sua cara Mrs. Hamley tutta per sé. Sedere tranquilla nel salottino, parlare di poesie e di romanzetti e a mezzogiorno gironzolare in giardino, che splendeva di fiori autunnali e di gocce di rugiada sulle trame delle esili ragnatele che si allungavano sui petali scarlatti, azzurri, violetti e gialli. Mentre erano sedute per il pranzo, la voce e il passo di uno sconosciuto si udirono in ingresso. La porta si aprì ed entrò un giovane uomo che non poteva essere altri che Osborne. Era bello e aveva un'attitudine languida, quasi fragile come quella della madre, alla quale somigliava moltissimo. Questa apparente delicatezza lo faceva apparire più maturo della sua età. Era vestito alla perfezione, eppure con una sciolta noncuranza. Si avvicinò alla madre e le si mise accanto prendendole la mano mentre i suoi occhi esaminavano Molly, senza arroganza o impertinenza, ma come per studiarla da un punto di vista critico. Sì, sono tornato indietro. Ho scoperto che i manzi non sono nelle mie corde, ma ho deluso mio padre nel non dimostrarmi capace di apprezzare i loro meriti e temo non essere interessato a imparare. E l'odore era insopportabile in una giornata così calda. Mio caro ragazzo, non scusarti con me e risparmiati per tuo padre. Io sono felicissima che tu sia tornato. Miss Gibson, questo alto giovanotto è mio figlio Osborne. Immagino sia facile capirlo. Osborne? Miss Gibson. Cosa vuoi da mangiare? Sedendosi, egli guardò alla tavola. Niente di quello che c'è qui, rispose. C'è del pasticcio di carne freddo? Me lo faccio portare. Molly stava tentando di riconciliare l'idea con il reale. L'ideale era agile, ma energico, con lineamenti greci e un occhio d'aquila capace di sopportare lunghi digiuni e incurante di ciò che mangiava. Il reale era quasi effeminato nei movimenti, anche se non nell'aspetto. Aveva sì tratti greci, ma l'espressione dei suoi era fredda e stanca. Era schizzinoso a proposito del cibo e di certo non aveva un appetito omerico. Tuttavia, l'eroe di Molly non avrebbe mangiato più di Ivanhoe quando fu ospite di frate Tuck. E dopo tutto, con una lieve variazione, ella iniziò a pensare che Mr. Osborne Hamley potesse trasformarsi in un eroe poetico, se non in un cavaliere. Egli era molto premuroso nei confronti della madre e questo fece piacere a Molly e a sua volta Mrs. Hamley sembrava incantata da lui in misura tale che per un paio di volte la ragazza immaginò che madre e figlio sarebbero stati più felici senza di lei. Tuttavia Molly, arguta benché semplice, fu colpita dal fatto che Osborne si stesse obliquamente rivolgendo a lei nei discorsi indirizzati a sua madre. Udì svolazzi e fioriture verbali che non poté fare a meno di considerare come antiquate graziosità linguistiche non comuni nelle conversazioni quotidiane tra una madre e suo figlio. Era però lusinghiero pensare che un giovanotto così bello e per di più un poeta ritenesse doveroso parlare in modo tanto forbito per rendere omaggio a lei. E prima della fine di quel pomeriggio, senza che ci fosse stato alcuno scambio diretto fra Osborne e Molly, nella sua fantasia lei lo aveva collocato nuovamente sul suo trono. Anzi, si era sentita quasi sleale nei confronti della sua cara Mrs. Hamley, quando nella prima ora che era seguita la loro presentazione, aveva messo in dubbio i motivi per cui il giovane dovesse essere adorato dalla madre. La bellezza di lui era sempre più evidente, mentre si animava nella discussione. E tutti i suoi gesti, per quanto un po' studiati, erano estremamente aggraziati. Prima che Molly se ne andasse, Roger e lo Squire tornarono da Canonbury. Osborne qui! Esclamò lo Squire rosso e ansante. Perché mai non ci potevate dire che stavate tornando a casa? Vi ho cercato dappertutto, mentre stavamo entrando per mangiare. Volevo presentarvi Grantley, Fox e Lord Forrest, giunti dall'altra parte della contea, che dovreste conoscere. Roger si è perso quasi metà del pranzo per venirvi a cercare e per tutto il tempo vi eravate già andato via. E ve ne stavate seduto qui tranquillo insieme alle donne. Mi auguro che la prossima volta che sgattaiolerete via me lo farete sapere. Non mi sono goduto neanche per metà la mandria più bella che avessi mai visto, perché pensavo vi avesse preso uno dei vostri vecchi attacchi di debolezza. Pensavo che ne avrei avuto uno se fossi rimasto ancora un po' in quell'atmosfera, ma mi spiace di avervi causato preoccupazione. Bene, bene, commentò lo squire un po' raddolcito. E anche Roger. L'ho mandato in giro ovunque, per tutto il pomeriggio. Non ha importanza, signore. Mi dispiace solo vedervi a disagio. Ho pensato che Osborne fosse rincasato perché sapevo che la situazione non era adatta a lui, disse Roger. Molly intercettò uno sguardo fra i due fratelli, uno sguardo di pura confidenza ed affetto per cui entrambi le piacquero, sotto la luce di quel loro rapporto per lei finora sconosciuto. Roger le si avvicinò e sedette accanto a lei. Allora, come va con Huber? Non lo trovate molto interessante? Temo, rispose Molly dispiaciuta, di non aver letto molto. Alle signorine Browning piace sentirmi parlare e poi c'è così tanto da fare in casa prima del ritorno di papà e Miss Browning non gradisce che io ci vada senza di lei. So che sembra un'inezia, ma mi porta via tantissimo tempo. Quando ritorna vostro padre? Martedì prossimo, credo. Non può starvi a lungo. Passerò a porgere i miei rispetti a Mrs. Gibson, promise lui, non appena potrò. Vostro padre è stato un mio buon amico sin da quando ero un ragazzo, e quando verrò mi aspetterò che la mia allieva sia stata molto diligente, concluse, con un sorriso piacevole e gentile per la pigra Molly. Poi arrivò la carrozza e la ragazza tornò in solitudine dalle signorine Browning. Quando arrivò era buio, ma Miss Phoebe era in piedi sulle scale con una candela accesa in mano a sbirciar nell'oscurità per vedere Molly rientrare. Oh, Molly, pensavo che non saresti mai tornata. Una tale notizia. Mia sorella è andata a letto, ha mal di testa per l'eccitazione, credo, ma dice che è colpa del nuovo pane. Vieni su pianino, mia cara, e ti racconterò di cosa si tratta. Immagini che sia stato qui a prendere il tè con noi, anche con somma indulgenza? Lady Harriet? Indovinò Molly, illuminata improvvisamente dalla parola indulgenza. Sì, ma come hai fatto? Insomma, dopo tutta questa visita, almeno all'inizio, era per te. Oh, cara Molly, se non hai fretta di andare a dormire, lascia che mi sieda qui buona e ti racconti tutto. Il mio cuore sobbalza ancora al pensiero delle condizioni in cui sono stata sorpresa. Lei, cioè sua signoria, ha lasciato la carrozza alla George ed è andata a far spesa a piedi, come io e te possiamo aver fatto mille volte in vita nostra. Mia sorella stava facendo un pisolino e io ero seduta con la gonna sopra le ginocchia e i piedi appoggiati contro il parafuoco, intenta a tirar fuori il pizzo di mia nonna che aveva appena lavato. E il peggio deve ancora venire. Mi ero tolta la cuffietta perché pensavo che stesse facendo buio e non sarebbe venuto nessuno. E quindi eccomi con la mia papalina di seta nera. Quando Nancy fa capolino e mormora: c'è una signora da basso, veramente una gran signora da come parla. Ed ecco che entra Lady Harriet, così dolce e bella che solo dopo un po' mi sono ricordata di non avere la cuffietta. Mia sorella non si è mai svegliata, o non si è mai riscossa, per così dire. Ha detto che pensava fosse Nancy che portava il tè quando ha sentito qualcuno muoversi. Infatti, sua signoria, non appena ha visto la situazione, è venuta a inginocchiarsi sul tappeto accanto a me e mi ha chiesto scusa per aver seguito Nancy di sopra senza aspettare il permesso ed era così incantata dal suo vecchio pizzo. Voleva sapere come l'avevo lavato e dove fossi tu e quando saresti rincasata e quando la coppia felice sarà di ritorno, finché mia sorella si è destata. Sai, è sempre un po' nervosa appena si sveglia dal riposino pomeridiano. E senza voltarsi per vedere chi era, ha detto brusca: cos'è tutto questo brusio? Quando imparerete che sussurrare è più fastidioso del parlare ad alta voce. Non sono riuscita a dormire affatto. Tu e Nancy non avete mai smesso di chiacchierare. Vedi, questa era un'idea di mia sorella, perché aveva russato ben bene con tutta naturalezza. Così mi sono avvicinata, mi sono chinata su di lei e le ho detto a bassa voce: sorella, eravamo io e sua signoria a parlare. Signoria qui, signoria là. Hai perso il senno, Febe? Che dici queste sciocchezze con la papalina addosso, oltretutto? A questo punto era seduta e guardandosi intorno ha visto Lady Harriet con i suoi velluti e le sue sete accovacciata sul nostro tappeto sorridente senza cappellino e con i bei capelli che splendevano alla fiamma del camino. Parola mia. Mia sorella si è alzata di scatto, in tutta velocità ha fatto una riverenza e si è scusata per aver dormito, mentre io sono uscita a mettermi la mia cuffietta migliore, perché mia sorella aveva ragione a dire che avevo perso la testa a continuare a chiacchierare con la figlia di un conte con addosso una vecchia papalina di seta nera. Di seta nera, oltretutto. Insomma, se avessi saputo che sarebbe venuta, mi sarei messa quella nuova di seta marrone, che se ne sta lì inutilizzata nel mio cassetto in alto. E quando sono tornata, mia sorella stava ordinando il tè per sua signoria, per noi voglio dire. Così ho iniziato a parlare io e mia sorella se l'è svignata per andare a mettersi l'abito di seta della domenica. Ma non penso che siamo state altrettanto a nostro agio con sua signoria come eravamo mentre ero intenta sul mio pizzo con la papalina in testa. Lei è stata molto colpita dal nostro tè e ci ha chiesto dove lo prendiamo, perché non ne ha mai assaggiato di simile. E io le ho detto che l'abbiamo pagato solo 3 scellini e 4 penny alla libra da Johnson. Mia sorella dice che avrei dovuto menzionare il prezzo del tè che offriamo agli ospiti, che viene 5 scellini alla libra, ma non era quello che stavamo bevendo. Infatti, per somma sfortuna, di quello non ce n'era in casa. E lei ha detto che ce ne manderà un po' del suo, che viene dalla Russia o dalla Prussia o da qualche posto lontano, e noi dovremmo fare un paragone e vedere quale ci piace di più. E se ci piace di più il suo, ce lo può far avere a trascelina alla libbra. Ci ha lasciato il suo affetto per sempre. E anche se sta andando via, ha detto di non dimenticarla. Mia sorella sostiene che un tale messaggio ti monterà la testa e non voleva prendersi la responsabilità di comunicartelo. Ma, ho detto io, un messaggio è un messaggio e dipende da Molly lasciarsi montare la testa per questo. Diamole un esempio di umiltà, sorella, anche se siamo state guancia a guancia con un ospite del genere. Così mia sorella ha sbuffato, ha detto di avere mal di testa ed è andata a letto. E adesso puoi raccontare le tue notizie, mia cara. Molly dunque narrò i suoi piccoli avvenimenti, i quali, per quanto interessanti, sarebbero potuti suonare in altre occasioni alle orecchie premurose e amanti del pettegolezzo di Miss Febe, apparivano piuttosto scialbi alla potente luce emessa dalla visita della figlia di un conte.